disse: ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dai, forza, così ci togliamo subito il dente, caro David. Togliamoci subito questo dente. 80 anni di Berlusconi, 80 anni, sì, no, anzi, 65 di Bersani. Quant'è che ne fa Bersani? Compleanno pure di Bersani. Sono veramente un paese. Compleanno di mio figlio anche. Compleanno di tuo figlio, un paese razzista, perché si festeggia solamente Berlusconi, in sostanza. Povero Bersani, oggi viene un po' oscurato. E c'è il compleanno di tuo figlio, che pure è importante, ma sì, il compleanno anche di tanta altra gente. Per esempio, c'è il compleanno di una famosa pornostar che si chiama Brigitta Bulgari. Non so se tu la conosci. No, chiedo scusa, non ho mai avuto Brigitta Bulgari, che non è Bulgari. Però un ospite che è qui al mio fianco, che non so niente di questo ospite. Non sai niente, non devi sapere niente. Il dottor Hannuna, che da Tel Aviv è venuto qui apposta per ascoltarci. Signor Hannuna, vabbè. Eccolo qua. E poi, conosce la pornostar, certo, normale. Poi c'è anche il compleanno di un cantante, sì. Raff. Non capisco. Raff, perché bisogna. Raff, io conoscevo la RAF, sì, la RAF. Royal Armed Force. Credo, bravo, sì. bravo. No, non so se è così, eh. No, la RAF, sai chi era la RAF? Vabbè, sì, come no, la cosa, no? Come si chiama? L'aviazione britannica, che cos'è? Ragazzi miei. Alcune frasi famose del Berlusca, via. Yeah. Sento parlare la signora Rosy Binti. Sì, dice che è gravissimo, è quello sempre, che lei sta dicendo. È sempre più bella che intelligente. Non è morto Berlusconi, fa 80 anni, non è un coccodrillo questo. Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato, e quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione. Quanto ci mancano queste cose, quanto ci mancano queste cose. È vivo, però sta lì circondato, mezzo narcotizzato, non parla più come prima. Vabbè, ancora. Fondò qui la città di Lavinia e con Lavinia diede luogo a una dinastia da cui poi nacquero Romolo e Remolo. Non te la ricordavi Romolo e Remo, eh? No, questa no. Senti sui comunisti come tuonava contro i comunisti. Sentilo. Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti. Ti piace, ti eccita. Beh, sta mi eccitava, roba, eh? Mi eccitava, cioè, sta cosa qua. Mi sembra eccitava. Un'altra epoca, la TV, sì, al bianco e sì, nero. Sì, mi eccitava moltissimo, sì, questa cosa. Certo. Mi eccitava moltissimo. Famosi comunisti. Però ricordo anche una frase della Daddario recentemente, della signora Daddario. Patrizia Daddario al tribunale, così disse: aspetta, quella sera, novembre 2008, sì, decisi di restare a Palazzo Grazioli. Sì. Berlusconi mi portò nella sua camera da letto, mi mostrò il letto che gli aveva regalato Putin, il famoso lettone di Putin. Avemmo rapporti sessuali, chiacchierammo e lui mi dedicò poesie. Al mattino dopo facemmo colazione insieme e il presidente mi diede consigli sul sesso. Senti questa. Mi disse che per provare piacere avrei dovuto acconsentire che al rapporto partecipasse una donna. Beh, amico mio, sempre al top il Berlusca, eh. Poi dice che non voleva usare il preservativo, signora Daddario, eh. Mi disse pure che il presidente andava a letto e non usava il preservativo. Io lì mi sono anche un po' arrabbiata, gli ho detto: scusa, ma con tutte le malattie che ci sono in giro uno deve andare pure a letto, cioè non riesco a capire queste indicazioni. In più io gli avevo chiesto 2000 euro per la serata e solo per la cena. Lui a quel punto, quando ha visto che io non volevo andare a letto con lui, mi ha solo dato 1000 euro e solo per la cena. Questa era una serata precedente, vabbè. Beh, però andare a cena e guadagnare anche 1000 euro, sì, insomma, non era male, per carità. Infatti, perché solo a cena 1000 euro. Zalone e gli auguri a Berlusconi. Senti, che Zalone, è stupenda questa. Senti. 80 candeline. Non so se lei mi conosce, caro presidente, io sono il 30% del suo fatturato. Niente, che dirle, volevi farle i miei personali auguri nella convinzione che quando un giorno io avrò 80 anni mi telefonerà lì personalmente per farmi gli auguri. Perché, cari italiani, questo me li farà gli auguri quando avrò 80 anni, vedrete che sarà così. Su col morale. Perché su col morale? Non si capisce, questo sembra sia comunque un epitafio. La realtà è questa, che Zalone si può permettere di dire a Berlusconi io sono il 30% del suo fatturato, cioè pigliarlo anche un po' per il culo, capito? Sino che con Zalone può fare il cazzo che vuole con tutti i soldi che ha guadagnato fino adesso, tutto quello che vuole. È la prova provata che a un certo punto i soldi servono solo a quello. I soldi servono solo a quello, a c'è fare chi quello mi telefona che uno... in diretta. Ma che ne so, perché mi devi interrompere il flusso di una cosa che dico? Sì, chi è? Chi è? Chi è? Chi è che ti sta chiamando? Guarda, scusami, sono in diretta. Ecco, mandalo a fare in culo, dopo. Per favore. Mandalo a fare in culo. Grazie, ciao. Allora, Berlusconi, sì, no, Berlusconi, no, Barisoni, Berlusconi. Barisoni, Berlusconi, non si può si dire. Si è dimenticato di nuovo, no. Anche dopo mesi e mesi, no. Ha commesso un altro errore. Ha dimenticato un'altra volta il portafoglio. Allora, esplorazione del portafoglio, no, signor Barisoni. No, ma non si fa, poverino. Qua davanti a me. Allora, se ci sono in contanti ci sono 35 euro, una cosa da poveracci. Un pezzo da 20, un pezzo da 10, un pezzo da 5. Però è giusto, non si devono mai avere i contanti, mai, mai. Carte di credito sono aumentate rispetto all'altra volta, sono tipo 6-7 carte di credito, qui quella aziendale. Come aumenta? Riconosco quella aziendale. Riconosco, no, carte, ma non è vero, non dire così. Poi stranamente c'è un pezzo da 10 dollari, e vabbè, tu lo dici, sei stato in America. C'è anche un pezzo da 100 corone ceche della Repubblica Ceca. Dico niente. Questo è già più. Repubblica Ceca, per carità, si va per affari di solito. Repubblica Ceca, sì, sì, affari. Fa giovane, vice direttore, che affari? Ah, si va per affari di solito. Io ho amici miei che vanno per altri motivi in Repubblica Ceca, in particolare a Praga. Però sicuramente non c'entra niente. Faccio parte anch'io del fan club femminile di Barisoni. Barisoni, sei troppo sexy. Ma chi è? Vabbè. Le banche non si possono dire, dici, viola la privacy. No, no, no, no, ti prego, già abbiamo tanti problemi. Bigliettini, vabbè, niente di particolare, un po' una cosa da straccioni. Vabbè. Sebastiano Barisoni e il suo Focus Economia sono l'antifiga per eccellenza. No, beh, ragazzi, ma che ci vuoi dire così? Perché mi mettete sta roba? Ma perché? Perché sono dei figli così? Di puttana, capito? Mi mettono sta roba qua. È così. Che testa di cazzo. Tu che non sai mai niente. No, ti giuro, non sapevo nulla di questo. Ma non, mi voglio giustificare, non lo sapevo. Non lo sapevo, mi mettono delle cose così a tradimento. A tradimento, sì. Ma ti giuro, non lo so. Vabbè. Vabbè, allora lo sapevo. Allora, attenzione, Lexio Magistralis di Sgarbi a Milano su Giotto. Su Giotto, Giotto, attenzione, è una cosa molto di grande cultura, di grande spessore, di grande. Una cosa molto profonda su Giotto. È importante, Parenzo. Beh, Giotto, finalmente un po' di ti cultura. Giuro, la Zanzara, era lì per Giotto, no, ma è una grande cosa, un momento di grande cultura la Zanzara. Senti, senti, senti che dice. No, ma è fondamentale, è un principio fondamentale dell'arte di Giotto, senti. Io poi ho un ruolo sostanziale che di manutentore di matrimoni. Io mi occupo di fare manutenzione di matrimoni che hanno problemi per rimettere in ordine la moglie e restituirla al marito in condizioni migliori. Quindi in queste funzioni ho svolto una lunga carriera come di pulizia, vorrei dire, ecco, ho fatto pulizia nella famiglia, ho rimesso in ordine in splendore delle fiche impolverate, insomma, ho fatto insomma... Ti giuro, era stato. È inutile, so che perché. Era stato invitato, no, su Giotto. Guarda, non so perché, ma ho il sospetto. Lo sospettavo cosa? Un po'. No, ma cosa. Ti giuro, era su Giotto. Che saltava fuori qualcosa. Cioè, tu dici di era improbabile che mettessi una cosa su Giotto. Sì, dici tu l'arte molto di Giotto. Era altamente improbabile, sì, però, che tu però, facessi la storia. Però cima, il rapporto Giotto, no, certo, Cimabue, però ti la posso... cappella degli scroveni. La cappella, lascia perdere la cappella. Appunto, però, David, ti posso giurare, sì, giurare ma... su chi vuoi, no, che era una cosa su Giotto. No, lo sapevo che era così, ma era una cosa su Giotto. Era stato invitato su Giotto a parlare. Non so perché, ma guarda, me lo sentivo che comunque non c'era, dove lui spiegava la tecnicalità degli affreschi. No, però parla della Gioconda. Attenzione, no, questo è un momento fondamentale. La Gioconda, no, la Gioconda, guarda, questo è serio. La Gioconda, senti. La Gioconda sorride per una semplice ragione: perché è compiaciuta di esistere. Tu la vedi, se guardate bene, lei ti guarda così, stringendo le braccia, e guarda ognuno di noi. Essendo pronta per ognuno di noi, è la più grande puttana della storia. Tutti guardano solo lei, perché lei è la più grande troia che sia mai stata dipinta. anche qua che vuoi fare? Cosa vuoi fare? Fermi, torniamo, fermi lì. Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico! Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, la giustizia italiana a proposito di immigrati, c'è una persona che è stata praticamente salvata dal Tribunale di Venezia. Ascolta questa cosa, Parenzo, no, voglio vedere se la giustifichi questa cosa. Cioè, ha ucciso una persona in Nigeria, sì. Lo ha confessato, sì. Non subito però, al giudice che voleva rispedirlo in patria, cioè in Nigeria. Ma proprio per questo, perché lì c'è la pena di morte, esatto. Ha ottenuto lo status di rifugiato. Ottimo, meno male, paese civile l'Italia. Allora, un nigeriano, ottimo. Stava normale. Per essere rimpatriato. Non è una notizia. Aspetta, non è in possesso dei requisiti che gli consentono l'asilo. Sì, ecco. Ha detto, dopo un po' di tempo naturalmente, dopo quando ha fatto ricorso, sì. Cioè se ne è ricordato, sì. Con grande ritardo, sì. Ho ucciso una persona, raccontando, sì. Di un litigio tra il padre e lo zio finito nel sangue, e siccome in Nigeria c'è la pena di morte... Basta, stop la tradizione Nigeria. La Nigeria, come il Senegal, come tanti altri paesi. Qui che si inventano hanno di tutto, si inventano di tutto. Di come vai a controllare? Impongono, dai. Al nostro paese civile di non rimandarli nei posti dove, ma questi rischiano, vergogna, di morire. Ma è una vergogna. Ma ognuno decide come vuole. Se c'è la pena di morte, se c'è la pena cosa. Di morte, pazienza, hai ammazzato uno. Come nel tuo paese c'è la pena di morte. Ma abbiamo delle convenzioni internazionali. Il nostro è un paese civile. Però c'è un altro caso. C'è un altro caso. È a Cresole, credo che si pronunci così. Tu sei veneto, forse mi puoi aiutare. Cresole. Cresole, frazione in provincia di Vicenza. Cresole, due signori, Cresole. Uno che si chiama Oscar Toffano, sì. Toffano, 68 anni, e la moglie Paola Fracca, hanno praticamente la parte inferiore della casa, della stessa palazzina, sì. Cioè l'appartamento in basso, occupato da immigrati. Perché e si sono ammalati. Occupato? No, occupato nel senso che una cooperativa ospita degli immigrati, no? Gli immigrati. E questi qua, già dire dice occupato dei immigrati, dice vuol che dire si sono, che l'abbiano occupato loro. Dice che, no. Dice che si sono ammalati per il rumore che fanno. E dunque protestano questi due signori anziani. Io una telefonatina a casa di questa signora la farei. Sì, ma la signora Paola Fracca e Oscar Toffano. Mi puzza la storia. Dice che fanno casino, protestano. Mi puzza. Dice, ho paura di scendere per le scale. Dice la signora, leggo sui giornali. Mi sentiamo, puzza. Sentiamo. Vediamo. Pronto? Sì, Paola. Sì? Sono Cruciani, ciao, come stai? Io male, grazie, e te? Beh, me la cavo così, combatto. Ma che succede con sti immigrati? Niente, siamo sempre in ballo. Cioè, che fanno sti immigrati? Lo sai te? No, non lo so io, che fanno? Nemmeno io. Cioè, non sono nulla facenti? Esattamente. Ma perché disturbano, dite, tu ma e tuo marito? Cioè, adesso è da domenica, per dirti, sì? Che dalle 10 e mezza di sera, sì? Sono un attimo più silenziosi. Sì, è perché è venuto fuori il servizio di TV. È perché è venuto fuori l'articolo. Furbetti, furbetti. Molto furbi, esatto. Oggi è venuta qua il programma che fanno su Rete 4 alle 8:30 del Debbio. Vostra parte. Beh, certo, del Debbio subito, subito, ecco. Signor del Debbio, certo. E tornano adesso alle 7:30-8. Certo, ma scusa, ma che problemi vi danno questi immigrati a te e a tuo marito? Non è che danno problemi veri e propri, è che disturbano. Cioè, in che senso disturbano? Nel senso che loro fanno la loro vita chiassosa. Sì. Ok? Sì. Da mezzogiorno alle 2, che dovrebbe essere ora di silenzio, giusto? E invece che fanno? Urlano, gridano, tutto così. E poi? E lo stesso la sera. Lo stesso la sera. Ma e voi chi è che urla? Che ma cosa dice? Ma lei ha paura di scendere le scale? Perché voi state al piano di sopra, che dove state? Noi siamo al secondo piano. Cosa vuoi, che io vada giù e mi incrocio con due negri? Beh, negri, signora, due negri. Io perché mi devo incrociare con lei, ad esempio? Ma stiamo scherzando. No, ma stiamo scherzando anche il contrario, aspetta, però. Perché non si vuole incrociare con due negri, signora? Ma se nessuno ce li ha presentati un mese che sono qua. Scusa, Beh, ho capito, chi è che ve li doveva presentare? La cooperativa. Ah, quelli che l'hanno messi a casa. Esatto. Però, scusi, che episodi sono successi? Nessun episodio particolare. Ma ho capito, una volta, una volta la c'è... nostra vita tranquilla non c'è più, ok? Non siamo più a casa nostra. Beh, questo è importante, Parenzo, questo è importante, Parenzo. Ma cosa siamo a casa? Ma cosa sta dicendo? Ma come? No, quella è a casa sua, gli piazzano gli immigrati sotto casa che ma fanno casino. Ma come gli piazzano? Ma che casino? Adesso ha già detto che hanno già smesso, su, come, come degli italiani in chiassone. Ma chi sta parlando? Ma Parenzo, chi sta parlando? Parenzo. Sto parlando io, signora, sto parlando io che sono italianissimo, padano, veneto, padovano. E allora se li porti a casa lei. Eccola là, immaginavo. Okay. Eccola, ha ragione se la li signora, porti, ha ok, ragione. Ok. Oh, no, meno male. Sì, ok. Ecco l'altro. Lei. È arrivato il soccorso nero lì a dire porti a casa ha lei. Ragione, ma... ha ragione la signora. Ma perché? Scusa, non ho capito. Questi basta signori. Basta buttare benzina sul fuoco. Cosa dai c'entra? Dai benzina sul fuoco. Che cazzo dice? Signora mia, come parla, prego? Ma scusa, ma ha ragione, ha ragione. Ma nonnina, ma come parla? Ma ha ragione, ha ragione. Come parla? Ma come parla? Ma come parla? Ma tiri fuori un po' di pietà cristiana. Ma tiri fuori. Subire questo? Subire. Tiri fuori un po' di pietà. Quanti anni ha lei, signora? Quanti anni ha? 66. Ma è incazzata nera, Parenzo, per questa cosa qua, la signora. Scusa. Ma tiri fuori un po' di pietà cristiana, invece, dai. Pietà perché? Pietà cristiana che la tirino fuori i preti prima. Dai. Ok. Quella vuole dire la nonnina padana, in realtà. E tutti quelli che hanno le case. Ma vuole vivere in pace la signora, scusa. Chi vuole vivere, se lei è tranquilla. Ma lei chi è che le rompe le scatole? Io e mio marito, problemi di salute, ne abbiamo da vendere. Ma è vero, è vero che lei ha avuto problemi di salute anche per questa vicenda? Io sono esaurita. Esaurita. Mio marito mi pure. Sono esauriti. C'hanno emigrati sotto e sono esauriti. Parenzo, cosa vuoi dire? Mi dispiace, sparategli dalla finestra. Dal 2014, mamma mia, da quando mio fratello e mia cognata hanno fatto il cazzo che hanno voluto. Attenzione. Con tre cani. Ah. E loro non lo dicono, lo dico io adesso. Cosa dice? Cosa dice? Perché loro dicono che la colpa è sempre nostra. Ah, ma allora la casa sotto è di suo fratello. Che l'appartamento sotto è di mio fratello. Che mio fratello mongoloide l'ha dato. Beh, adesso questo alla cooperativa. E allora che cazzo vuole, signora? E allora che vuole? Che suo fratello guadagna con gli immigrati? Che cosa vuole? Ci vediamo. Lei è d'accordo. Che cosa vuole? È tutto questione di soldi. Allora i soldini dei migranti le fanno comodo per metterle in 40 dentro una casa. E poi rompe pure i coglioni, vero? Mamma mia, ma si vergogni. Il fratello affitta la casa e lei rompe pure le balle. Oh. Io rompo le balle. Sì. Ma si vergogni lei? Ma parli con suo fratello e non rompa le scatole io a noi, su. Ma parli con suo fratello, non dica stupidaggini, dai! Ogni volta deve finire così. Però devo dire che su questa volta hai ragione. Scusami, un po' hai ragione, sì, un po' hai ragione. In questi, festa, questa nonna in festa, televisioni e radio per denunziare i migranti quando sono affittuari del fratello. Per forza gli immigrati la schifano quella signora. Hanno anche ragione perché vedono l'Occidente, vedono questa famiglia distrutta dentro al loro interno. E per forza la schifano quella signora lì. È giusto. Però questi comunque erano un po' di coglioni, fanno rumore, scusa. Ma fanno rumore, chiacchiereranno come chiacchiera chiunque, no? Stanno lì sotto, chiacchierano. Cosa vuoi fare? Se è tardi, se no li richiamo. Aspettiamo, che rumore fanno? Li chiamiamo dopo. Fermi tutti. Basta. Giuseppe, sono San Gennaro, ti tengo d'occhio. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. JP Morgan Asset Management vi presenta La Zanzara. Ciao Ciao Cruciani, mi sono appena laureato in economia, 110 lode, in cattolica, tutto è... Ma a me non me ne frega un cazzo, io voglio ascoltare la zanzara. Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti! Non so perché mi piace questa cosa qui di Berlusconi. Vabbè, oh, è stupendo. Siete oggi e sempre come, no, come se oggi e come sempre dei poveri comunisti. Ma non è vero. Beh, è stupendo. No, non esistono più i comunisti. Vabbè, amico mio, a parte che era un comizio di qualche anno fa. Ma neanche qualche anno fa. Ma era stupendo. Più, ma come non esistevano? Esistono anche ma oggi i comunisti. È pieno di comunisti dappertutto. Ma che scherzi. Ma è pieno di comunisti. Ma quali comunisti? Ma dai, su. Purtroppo. Brunetta gli sms a Renzi con un cuoricino. Ciao Brunetta. Okay. Riceve spesso da lei degli sms con dei cuoricini. Uno. È uno vero? Quando gli ho fatto gli auguri di buon anno, dicendo auguri nonostante noi. Un cuoricino. Ah, un solo cuoricino, quindi. Uno glielo manda, tre no. Uno. Se vuole glielo mostro. Quindi no, quindi un mostro. Messaggio con un cuoricino no, siccome è una cosa che ci ha incuriosito. E non mi ha neanche risposto. Un cuoricino, com'è che fa? Mandato un cuoricino, e cretino intanto, e non mi ha risposto, cretino, perché io ho Nobel per l'economia, Stiglitz. Brunetta contro Serracchiani e contro la Gruber. Oh, dove va litiga? Dove sì, va per litiga? Forza, sempre. Evidente, lo invitano per quello, tra l'altro. È un format. Non è che lo invitano per le sue teorie. Diciamo la verità, adesso lo dico, lo voglio dire tutta. No, non è vero. No, ma dai, David, adesso lo so che tu hai ristabilito i rapporti con Brunetta. Però ottimi, questa cosa sono tornato sì. E in ottimi rapporti. No, esatto, ma è fastidioso, mi ha detto l'ultima volta. Che ma lei è fastidioso. Sì, però abbiamo ritrovato sintonia sì, con Brunetta. Sì, d'accordo. Però si può dire una cosa, viene invitato perché ormai no, fa casino, non per quello che pensa di economia, viene vero, invitato solo vero, per quello, ma come no, dai. Ma quale casino, che casino. Vabbè, dai, ma... sei veramente un buffone. Non si può dire così, non si può. E non si può. Sul nostro milione e rotti di posti di lavoro creati, questo è stato certificato, però. Beh, vabbè, non voglio io, parlare io di io non me lo ricordo, però se lei mi dice che è certificato mi fido di lei. Un milione di posti di lavoro per la verità ci fossero certificati. No, sì, ma quei numeri non giochiamo con i numeri. Lei faceva il deputato europeo, io non ho giocato con i numeri. Lei faceva il deputato europeo del PD, sono tra due colleghe del PD. E quindi chi? Ma Brunetta, scusa, mi scusi, però, ma lei dice che non ricorda. Ma perché io devo le sto dicendo, ma no, io intanto non voglio aprire numeri, un dibattito con lei, ho semplicemente detto che sul suoi milione dei sono giusti e quelli che dico io non sono giusti, cioè perché dove sta scritto sta roba? Allora voglio parlare delle pensioni e comunque Brunetta si calmi perché no, si fanno delle domande, Gruber, si fanno lei, dei Gruber, dibattiti, si lei, Gruber, quindi si non lei. È che no, Gruber, si siccome lei. Io l'ho avuta Gruber, ospite si varie lei. Volte si cambia lei, Gruber l'ho avuta Gruber, ospite si varie lei. Volte anch'io e quindi conosco anch'io. Il suo anch'io, temperamento anch'io conosco la sua allora, attitudine Brunetta oggi Gruber. Si calmi. Ha mandato ai matti la signora Gruber. Sì, ha mandato ai matti. No, perché lei ha ricordato che era due deputati del PD, sì, perché certo, quando è stato deputato indipendente certo, al Parlamento europeo. Certo. E la tecnica sua è quella, e anch'io. Cioè, anch'io. Dice una cosa, e dice ospite, sì, anch'io. E l'altra volta ho detto le pensioni, farabutto, Padoan. Invece non si può dire, no, farabutto. Ma la farabutto è lei, anch'io. Cioè, lui non ti lascia, vuole avere l'ultima parola, capito? Senti, a proposito di Serracchiani. Però va detto una cosa sì, sua, ti saluta Annuna intanto sì, si è fermato. Però, come si vabbè, perché saluta Annuna? Sapere, ma che cazzo me ne frega di Annuna? Non me ne frega nulla di Annuna. Non si può di... Ma guarda, sai. Aspetta, no, ma sarà una bravissima persona. Però in questo momento io non ho il pensiero di Annuna. Non me ne frega niente. Ma no, la gente non sa chi è. Annuna, la gente non sa chi è. Sa che è ebreo come te. Per carità, ma grande rispetto. Questo? Grande rispetto, ma a me non me ne frega un cazzo. Allora, aspetta. Non si può però dire così. La signora Serracchiani di Robert Annuna. Ma anche è brutto, lui, anche sai, lui ha il pisello tagliato? Anche lui ha il pisello tagliato. Che ne so, Annuna, lei ha il pisello tagliato anche lei? Confermo. Pisello tagliato, ma è vero che funziona meglio il pisello tagliato? Mamma mia. Vai, raga, amico mio, sei qua al microfono adesso, di che vuoi parlare? Di religione? Di cosa vuoi parlare? Lui è una cosa estremamente di aziende, una vabbè, non me ne frega molto... niente. È vero che funziona meglio il pisello quando è come si chiama, Davide, la cosa che non mi ricordo circoncisione. Più. La circoncisione, scusa. Brit Milla. È vero che funziona meglio? Secondo te funziona meglio? Non un piccolo parere scientifico. Funziona meglio il pisello circonciso o no? Ma direi di sì. Cioè, sì. Funziona tecnicamente oppure solo dal punto di vista igienico? No, sono entrambe le cose, caro Cruciani. Entrambe le cose. Cioè, entrambe tu ci confermi più, dall'alto più, della tua. È più pulito e più chiaramente più resistente. Più resistente e più pulito la circoncisione. Bene, chiudiamo. Mi dispiace. Grazie. No, beh, mi dispiace perché ti deve dispiacere. Ma ti dispiace per te? Ma io mi sento pulito e resistente. Pulito, no, non troppo. Pulito, però, no! Pulito. Tu non sei una persona pulita. Sì, lo sanno tutti. Le porcherie che racconti. Avvicinati di più al microfono, scusami. Però. Glielo stavo dando a lui. Ecco, appunto. Cosa gli stavi dando? Scusa. No, il microfono l'ho avvicinato per dargli. Più pulito e più. E più. Resistente, ha detto. Bene, siamo contenti così. Allora ragazzi, io però stavo parlando della Serracchiani, sei tu che mi hai introdotto a Nuna. Allora, Deborah Serracchiani, a proposito del ponte sullo stretto, stiamo parlando del febbraio del 2000. Che tu hai scritto anche un libro memorabile su questo, peraltro. Un libro che ha venduto pochissime copie, non memorabile. Siccome pochissime? Pochissime, no, pochissime copie. Perché te lo dico io, pochissime copie. Hai mandato in fallimento la Sperling e Goffer? No, Goffer, no, era Rizzoli. Ma no, Rizzoli. No, ma no, ha fatto in fallimento. Infatti hai visto che è successo alla Rizzoli, sì, hanno dovuto vendere tutto poi. Dopo il tuo libro hanno dovuto vendere tutto, hai capito? A Berlusconi. Anche per quello, sì, è vero. Anche per quello. Ma è un libro straordinario, dai, questo ponte. Ponte non sa da fare, no, diciamo, sa da fare, dai. Era. Ah, tu che sa da fare adesso. Sì, allora, e oggi non lo vuoi fare, però. Esatto, magari. Bravo. Ma tu ti rendi conto quanto sei matto? Cioè, all'epoca sono matto, sì, è vero, che sono tutti matto. Lo volevano fare, dicevi no. Oggi no, che lo al contrario, fare. Al contrario. Al contrario, non capisci più niente. Allora, febbraio 2013, Deborah Serracchiani, Berlusconi. Sì. Prima di morire spero di attraversare il ponte di Messina, così disse Berlusconi, no? Sì. All'epoca. Lei ha ripreso questa frase di Berlusconi e ha aggiunto: viva pure a lungo, ma provi a non dire scemenze. Ora, signora Deborah Serracchiani, che credo sia vice segretario del PD, sì, se non sbaglio. Questo è corretto. Nonché presidente della regione Friuli Venezia Giulia, regione molto lontana però da Messina, per carità, diceva che era una scemenza fare il ponte sullo stretto. Allora, dovrebbe andare davanti a Renzi a dire: caro Presidente del Consiglio, stai dicendo una cazzata la dico io, una scemenza. Avrà il coraggio di farlo? Avrà il coraggio secondo te? No, non ce l'avrà. Perché magari ci dirà: beh, con Renzi è diverso, con Renzi si può fare, Berlusconi sparava cazzate a non finire, diceva e non faceva. Capito? Questo è la... E tu stai zitto. E Parenzo zitto. E Parenzo zitto. Ma no, Parenzo, vabbè. Cosa vuoi che ti dica, Parenzo? Che, sì, che ho ragione. Che ho ragione. Su questa cosa hai ragione. Ah, ecco, ma basta. No, ma io basta non questo. È che... Perfetto. Su questa cosa, stranamente, hai detto una cosa di buon senso. Hai ragione. La nonnina di prima è sempre occupata, La nonnina di prima, la famiglia Fratta. La nonnina veneta. Ma sì, quella è una famiglia disastrata, te lo dico io, guarda. Non lo so, adesso dobbiamo scoprire. Te lo dico io. Ah, no, che disastrata. Mi pare di intuire. Giorgio da Pisa, vai Giorgio, vai. Sono in onda? Sì, sennò con chi stai parlando? Con tua sorella, scusami. Per fortuna posso parlare col gatto e la volpe. Cioè con chi? Volevo non ho capito. Fare, con noi. Fare una domandina al signor Parenzo. Signor Parenzo, sì. Ecco, noi siamo, diciamo, in Italia, dobbiamo essere caritatevoli in modo cristiano con tutti. Allora, domani, sento già la sciocchezza che arriva, guarda. Aspetta, dai. Arriva. Te lo dico domani io. Domani il nostro problema si dovesse presentare a Israele, anche voi farete in modo caritatevole, in modo ebraico? Ma cosa c'entra? Cosa sta dicendo? No, non ho capito, scusami, che vuol sta dire? Dicendo, sì, spiegati cosa? Bene, Giorgio, sennò altrimenti ti attacco il telefono, no. Ti attacco il telefono, spiegati bene, sennò mi incazzo, no. Dai. Quando uno parla per bene non lo volete far parlare. Ma no, ma non parli per bene, non si capisce una sega di quello che vuoi dire, spiegami, io dai. Voglio dire, se un domani anche Israele gli si presenta il nostro problema dell'immigrazione selvaggia, loro cosa farebbero? Ma non lo so cosa farebbero, a parte che un allora, piccolo prova di immigrazione ce l'hanno avuto, ma sotto altri aspetti, diciamo. E il signor Parenzo fa presto a dire le cose così come vengono, tanto a lui non gli toccano, capito? Ah, finché non gli toccano, diciamo, tu dici la famiglia, Israele, il suo appartamento, eccetera, lui no. È tutto, è vabbè. Facile parlare, essere buoni per forza. Ma quale buoni? Ma io vivo qui, ma di che cosa sta parlando? No, ma perché lei è stupido? Ma perché? Perché? Io non l'ho offesa. Ma no, ma stupido così da un punto di vista... No, ma non è normale, ma io ma lo cosa, ma non ho capito cosa sta sostenendo, ma cos'è che sta sostenendo? Se lei è il gatto o la volpe? Ma che c'entra il gatto e la volpe? Ma io non ho capito cosa lei sta sostenendo. Sta sostenendo che tu, finché non c'hai gli immigrati in casa, ma praticamente qui li ho, c'ho vicini, li vedo. Non è che non li vedo. No, non li vedi, gli immigrati, no, non li vedo. Non li vedo. Perché dove vivo? Su Marte, vivo a Roma, vivo. Ma che c'entra domani in Israele? Cosa? Che ci sono altri problemi in Israele? Un problema come il nostro, come si comporterebbe? Ma che cazzo ne so io? Altri problemi, c'è il terrorismo, la gente che si fa esplodere in casa, cosa c'entra? Sono stato troppo buono, via. Ciao, Vladi Milano, Vladi Milano, Vladi, Vladi, signor Vladi. Ciao, Parenzo. Che sei, romeno? Che sei tu? Zingaro. Sono ucraino. Ucraino, ucraino. Ciao, fratello ucraino. Ciao. Fratelli dell'Ucraina, vai, Vladi, dimmi. No, vi volevo dire a proposito di stranieri, che io... di sopra di me, al secondo piano, abita una famiglia equadoriana. Equadoriana, però che c'hanno gli equadoriani adesso? Dei rumori, no, io ho fatto la querela, poi mi sono andato, l'ho ritirato. Ma perché? Che hanno fatto questi qua? No, perché devo prendere la cittadinanza. Allora? E non voglio avere delle pratiche in corso. Sì, e allora? E allora questi sono andato, ho fatto la querela, fanno rumori, vengono, cantano la Madonnina. Cantano la Madonnina, poi? Fanno dei compleanni, però va bene fino a un certo orario. Scusami, però adesso Vladi, l'Italia ha tanti problemi. Sì, ci sono gli immigrati, anche problemi seri in alcuni paesi dove ci sono pochi abitanti e ci sono tanti immigrati. C'è il problema del referendum istituzionale il 4 dicembre, che per qualcuno è un problema, per la politica, per l'istituzione, eccetera. Se guarda, quelli sopra di te, amico mio, ucraino, fratello ucraino, se sopra di te c'è una famiglia di equadoriani che fa rumore fino alle 2 di notte, ma a noi, ma che stracazzo ce ne frega! È un po' scusa, non me ne frega niente, però vivere in pace. Ma ho capito, ma ti rivolgiti alla polizia. Noi siamo tante cose, ma non siamo la polizia municipale di Milano. Sì, lo so, non lo so, siamo la polizia locale di Milano. Sai cosa mi hanno detto? Mi incolpavano a me. Ma fratello ucraino, però però io... si è sentito in dovere di chiamare qui, anche fratello. Bello questo essere un punto di riferimento. No, ma questo va anche bene. Perché lì si comportano a chi è intervenuta prima. Sì, fratello ucraino, però la signora rumori. Di prima, adesso proviamo a richiamarla la signora di prima, perché non ci risponde più, c'è il telefono sempre. No, mi dispiace se non risponde. Ho capito, ma lì è un problema diverso, non è un problema semplicemente di rumori fatti dalla famiglia equadoriana sopra che magari che fanno male. Sti equadoriani che sono della gente pacifica di solito, gli equadoriani che hanno fatto, equadoregni, equadoriani. Se io vado le chiedo per favore, io pago l'università dalla mia figlia di giorno che studia e loro lasciano i bambini tutto il giorno a urlare. Vabbè, amico mio, però, ma scusa, ma per ma è un problema io da pure io lo sai che adesso dopo ti racconto una cosa sociale, di casa mia servizi sociali, se arrivano, servizi sociali. Li ritirano i bambini, ma che c'entrano i servizi sociali per i bambini, quelli giocano scusa no, dammi il numero Vladi, dammi il numero di telefono dammi un bambino da 5 anni per tutto il giorno tutti i pomeriggi, dammi il numero di telefono di questi qua, il numero di casa, così non li conosco, mi piace, amico mio, però bisogna risolvere questa situazione, fermo lì, no non posso neanche parlare con loro, fermo lì. Lo sai che c'è? Non ce la faccio più. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Ragazzi, come grande seguace della Zanzara vorrei un intervento in diretta di Hannuna, per favore. Hannuna. Già fatto, amico mio, già fatto. Questi sono messaggi che arrivano live praticamente, live. È qui e basta. Ha già detto la sua, guarda, ha già detto qual è il beneficio di essere circoncisi. E anche se molti dicono che trattasi di mutilazione, ho ricevuto in questo momento messaggi, ma che dite, mutilazione? Sei tu mutilato al cervello? Un po' una mutilazione, diciamo. Ma quale mutilazione? Allora, l'hai mai considerato una mutilazione? In 30 secondi, perché non è una mutilazione? Effettivamente è una mutilazione, perché ti tagliano una parte del corpo, c'è poco da fare. Tagliano della pelle inutile del corpo. Sempre pelle, chi l'ha detto che è inutile quella parte lì? Scusa, chi l'ha detto? Il bambino non lo può decidere se è inutile o no. Scusa, io, fidati. Ma io ti fido anche, fratello, però fratello Annura, mi posso anche fidare. Ma, però qualcuno forte, dice è una mutilazione perché. Forte e pulito. Forte e pulito, dice il pisello. Forte e pulito. Siamo tutti. From Israel, ragazzi, from Israel. Io alla fine sono un grande tifoso di Israel. mi piace. Mossad, mi piace tantissimo il Mossad. Gli omicidi mirati, tutto mi piace. La forza militare. Certo, ci vanno giù pesante, signori. Ma che pesante? Pezzo. Ah, leggerissimi. I signori italiani. Ma leggerissimi. Leggerissimi, quando ci si mettono non sono leggerissimi. Ho capito, gli si scoppiano le persone in casa, le bombe, le cose. Vabbè. Oh. Allora, ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Siena, Luca, vai. A Siena andiamo. Sì, Siena, ciao, Luca. Ragazzi, sì. Ciao, ragazzi. È ancora occupato la matta, là, la vecchina? Sì, vabbè, dai, ragazzi, adesso si libererà, dai. Vai, Luca, dimmi. Allora, senti, Lorenzo, io ti voglio dire una cosa, guarda. Sì. Non posso dirti il paesino, però ascolta quello che ti dico. Allora, di che contrada sei te? Di quale contrada sei tu? No, fuori se non mi frega un cazzo di cavalli, ma mi importa una sega. Ascolta. Allora, c'ho un ritorno io sono fuori, ma c'ho un ritorno tremendo. Ma io, noi ti sentiamo benissimo, vai. È il ronzio della testa vuota quel ritorno che hai. Ma perché offendi? Ma perché sei un coglione? So già perché capisco dove vuoi arrivare. Ma di già ti telefono e ti dico coglione. Ma non mi interessa di parlare con lei di telefono. Chiama la radio, che me ne frega niente. Ma offendi la tua mamma, la tua sorella. Ma non me ne frega nulla di parlare con lei. Ma ha ragione, non ha detto niente fino adesso, non ho capito. Ma già ho intuito dal tono che ha usato all'inizio. Ma che tono, dai, su. Ho già intuito, piacere Parenzo. Se passi per la strada cammini, vedi uno, va a far culo stronco, sì. No, ho capito dal tono, dall'approccio. No, sei maleducato e caffone. Comunque, guardi, ascolta. Provo a ricredermi. Vediamo, no, provo a ricredermi. Ascolta. Sto zitto 30 secondi. Dicendo, provo a ricredermi. Ho detto che provo a ricredermi. Provo a ricredermi. Provo a ricredermi, ho detto. Ti dico un fatto, non ti posso dire il paese, ma ti dico un fatto, ti giuro. Allora, a parte sono contento, gente come te, buonista, stanno diventando cattivi anche buoni. Beh, insomma, con gli immigrati. Ma veramente, Parenzo è sempre buono, tutt'altro rimane. Mai, ma né no, buonista sta diventando cattivo, anche quello che era buono non ce la fa più. Ma chi l'ha detto? Da un anno e mezzo questi sei ragazzi sono in questo paesino a spese nostre. Sì. Quindi hanno luce, corrente, telefonino, vestiti buoni, mangiano il pollo, quello che purtroppo cazzo va così. Purtroppo va così. No, aspetta, con la chiesa nel mezzo che sta prendendo i soldi da tramite, lasciamo perdere. Che succede? Dopo un anno e mezzo si è accorta la prefettura che questi sono dei truffatori. Sono qui in Italia, non hanno le caratteristiche umanitarie, chiamale come cazzo. Vabbè, non hanno diritto all'asilo, non hanno diritto a un cazzo. Sì. Un anno e mezzo, allora circa 200 euro pago, al giorno. E io pago, Cruciani. Cruciani. Aspetta che dopo sì che tiro del culo quando ho finito, perché dimmi. Che te la prima parte? Allora, 200 euro al giorno, 6.000 euro al mese, Parenzo. Sì. Ragazzo siriano, io conosco un ragazzo siriano, ingegnere, che ha sofferto le sette pene. Bene, vieni qui, ti do da mangiare io. No, questi pezzi di merda. Allora, per un anno e mezzo, 6.000 euro al mese sono 100.000 euro. Parenzo, questa è una cacata nel mare, sei ragazzi, una cacata nel mare. Che è successo? La prefettura si accorge, dice no, questi vanno rispediti di là. No, questi fanno ricorso. Aspetta, bravo, Cruciani, è qui che casca. Ormai si questi sa. Hanno messo l'avvocato nostro, perché giustamente lo paghiamo noi. Vabbè, adesso noi il tribunale, sì. Tu, anche tu. Tra la... Ma io che ti devo dire, Parenzo? Quando sento di che te a prescindere le difendi, mi incazzo. E sono contento che tu sia in radio, sai perché? Perché quelli buoni stanno diventando cattivi. Cioè? Sono contento, perché se non c'eri te in radio, tanta gente rimaneva buona. Adesso quelli buoni si stanno rompendo i coglioni. Ha un effetto, allora, è intelligente, ripeto, questa persona che chiama. È intelligente, ha fatto un ragionamento incredibile proprio. Allora, no, però ma secondo te, però Luca ha ragione. No, non ha ragione. Non ha ragione. Hanno diritto a fare ricorso questi qua, secondo te? Hanno diritto a fare ricorso. La legge prevede che loro possono fare ricorso per dimostrare che hanno diritto all'asilo. Fanno bene a fare ricorso, fanno benissimo. Ma non puoi dire una cosa del genere, sei veramente una vergogna. Ma tu stai scherzando? Ma perché le democrazie devono sospendere le loro regole, furbetti? Luca, ma allora, a prescindere che mi hai fatto incazzare perché offendi a prescindere, e sei un cafone, e permettimi di dirmi sei un cafone. Vabbè, questo detto, farò una ragione. Ma secondo te avrò letto sereno stasera lo stesso, caro? Ma secondo te funziona così per migliaia di persone in Italia? Dai ragazzi, quando, non diciamo puttanate. Quando mia moglie con 17 anni di contributi non avrà manco un cazzo di pensione. Ma cosa c'entrano gli immigrati con tua moglie che non avrà purtroppo la pensione? Ma che c'entrano? Allora, Luca ha ragione, non al 100, al 200%, per un motivo, ecco, per un motivo molto semplice. No, per un motivo molto semplice. No, ma non c'è nessun soccorso. La cosa è molto semplice. La prefettura ti ha detto che tu non hai diritto? Hai preso soldi? Sono stati dati soldi in maniera irregolare? Regolare, va bene, lasciamo perdere, abbiamo sprecato quei soldi, va bene, va benissimo, mi sta bene, cioè mi sta, non va bene, però lasciamo perdere questa cosa qua. Dopo che ti hanno detto di no, prendi il fagotin, come diceva, com'è che diceva il mitico coso, il mitico, Prosperini, poi l'hanno messo in galera per altre ciappa cose. Ciappa il camel, purtroppo l'hanno messo in galera, è uscita, adesso l'ho incontrato qualche mese fa. Allora prendi la tua cosa e vai a casa, ti rimandiamo a casa. Quindi, entri in un paese in maniera truffaldina, Parenzo, oltretutto questo paese riconosce che stai truffando il paese in cui entri e spende soldi in avvocati, tribunali, spende soldi in avvocati, devono verificare se hanno diritto all'asilo. Si chiama, in democrazia funziona così. Ti hanno detto già di no. Come non rimandi Davide, in un paese Davide, che ha la pena di morte? Lascio, guarda, Davide, ma tanto questo non capisce. Non capisco niente. No. L'altra volta. Sei un coglione. È purtroppo piacere, Parenzo. Non ho sorelle. Piacere, Parenzo. Mi saluti a casa tutti. No, saluta la tua sorella. Non c'è. Indipendentemente dalla democrazia, come persona, come uomo, mi devi dire, questa qui è una puttanata che va messo male. No, secondo lui no, perché è giusto fare ricorso. Te l'ha già detto che è giusto fare ricorso. Secondo lui non c'è niente da fare. E i giudici decideranno in base alle carte. Ma quali carte che si inventano qualsiasi cosa, hanno dai. Diritto all'asilo oppure no? Cioè se vengono da paesi dove c'è la guerra. Mi dicono che si è liberato il numero. Aspetta, fermo. Si è liberato il numero. Aspetta. Fermi tutti. Musica. Allora, rapidissimamente, la storia è questa, eh. Due signori, due 65-68 anni, Toffano e Paola Fracca. Probabilmente della Lega. No, non lo so, della Lega, abitano al piano di sopra, sì. Sotto, da quello che abbiamo capito, il fratello ha litigato con loro, sembra, e poi ha affittato agli immigrati tramite una cooperativa la casa. Ora protestano perché dicono che gli immigrati fanno rumore. Prima abbiamo chiamato la signora, Paola Fracca, e dopo un po' Parenzo ci ha litigato, naturalmente. Ma che ci ha litigato? Ci ha litigato e ha buttato giù. Un po' discusso. Pare che il telefono si sia liberato di nuovo. Senti, aspetta, che notizia clamorosa. No, ma poi voglio... Ecco. Io non ci parlo. No, parlaci tu. Pronto? Perché ha abbassato, signora? Perché ha attaccato? Perché mi ha offeso. Parenzo, è offesa. È lei che ha offeso noi. Ok, niente, è lei che offende. Parlate uno o parla quell'altro? E parlo anch'io, anche se non affitto le case agli immigrati e poi mi lamento. Allora, il quadro è stato questo. Il fratello. Non è stato me ne frega fratello. Niente. Il fratello di questa signora, che adesso è arrabbiata, il fratello, ha affittato a una cooperativa per fare dei soldi, ha affittato la casa dove ci sono questi poveri immigranti. Signora, e sta signora rompe le scatole perché non li vuole. Pochissimo. Allora, è vero che suo fratello ha affittato la casa alla cooperativa? Sì. Cosa rompe le scatole? Sto dimenticando che la casa l'ha fatta mio padre. E chi se ne frega? E doveva restare in famiglia. E chi se ne frega? Ma se la prenda con suo fratello, allora, signora. Non è che se la può prendere con lo Stato. Appunto. Ma io non me la sto prendendo con voi. Siete voi che avete aperto l'argomento. No, noi. Non se la può prendere con lo Stato, allora. Cioè, se la deve prendere con suo fratello. Appunto. Ma che cazzo se ne frega quello che devo fare io? Ma non me lo dovete dire voi. Ma lei perché rompe le palle in giro, signora? Lei ha un fratello che ha affittato la sua casa di famiglia a una cooperativa per far ospitare dei migranti e ora rompe pure le balle in giro delle televisioni e delle radio. Ma non rompa le scatole e basta. Ma rompete le balle. Si vergogni. Chi è questo qua? Oscar. Sì, che è successo? Che è sta cagnara? Continuate a rompere le scatole a mia moglie, perché cosa c'è? Allora, Oscar, con me, no? No, ecco, parlo con te, Oscar, scusa un attimo. Perché sei incazzato con questi immigrati pure te? Che è successo? Perché questi immigrati, prima cosa, la casa era calma e tranquilla finché sono andati via i miei cognati. E questo è importante. questo è importante. Lui è andato via. sì. C'era delle discussioni tra noi. Lo sai, è andato via. C'era e la affitta, qualche offesa e altro. Non si è mai visto altre cose. Vabbè, ma questi sono cazzi vostri, però. Ecco, vabbè. Allora... sono furbi, sono andati via. Dunque, dopo è arrivati i migrati. Fatto il trasloco senza dirne niente. Sì. Hanno neanche suonato il campanello. Vabbè, ma questi si perché... sono presentati alla porta e sono entrati. Ma per questi perché devono presentarsi? Scusami, Oscar. Appunto, non c'è motivo. Questi stanno al primo piano, fanno la loro vita, scusa. Me ne frega a me che stanno al piano, entrano su una casa che c'è anche altre persone che abita. E che devono fare, gli omaggi? Ma cosa sta dicendo? No, gli omaggi, si vergogna a dire così. Ma che devono... perché non è a casa sua questa. Ma dunque hanno disturbato, che fanno? Disturbano? No, fanno... disturbano, sì. Mia moglie è stata operata 2 volte al seno, tumore. E io ho fatto un infarto tempo fa. Beh, questo è importante. Ma perché? Perché fanno rumore? Perché fanno casino? Perché fanno rumore? Perché alla domenica invece dei 6 sono 8, 9, 10. Ha capito? E che fanno? Vabbè, 8, 9, 10. Ce l'hanno, che fanno? Chiacchierano. Venga qua a abitarci lei, no? Qua. No, per carità. Ma lo dica a quello lì che gli ha affittato la casa, cioè il suo parente, e la smetta. Ma che sta dicendo lei? Oscar, allora, se la prenda con suo fratello. C'è un suo parente, c'è il fratello di sua moglie. Ma di suo fratello, perché se lo trovo io suo fratello, lo metto su un palo alto. Ma lei non può. È importante che mia moglie mi ha sempre tenuto fuori da questo. Perché sennò... mi ha fatto denunce tutte quelle che doveva fare. Perché sennò lo ammazza, lei dice, lo incontra e lo ammazza. No, io se lo incontro non lo lascio tanto per bene. Non lo appena. Perché dovrei finirla. Sì, avere sempre ragione. Allora, sti immigrati. Lui ha vissuto su questa casa, mai tirando fuori i soldi. Ma questi sono cazzi di famiglia vostra. Mamma mia, ma chi se ne frega? Strada, ho fatto i lavori su questa casa. Ma chi se ne frega? Lui ha fatto un cazzo. Aspetta. Ha portato i cani, ha rotto i coglioni. Però ma questi sono affari. Che rompe i coglioni ancora fuori. Però. Ma questi sono affari della vostra famiglia di cui non ce ne frega nulla a noi, nulla! Sono a me, neanche a tanto, comunque io, gli immigrati, ecco, gli immigrati. Sono questi che vadino pure a casa loro. Ma il problema è suo cognato. Ma il problema è il fratello di sua moglie, non gli immigrati, cazzo! Ma il fratello di mia moglie per me non esiste. Ho già detto che se dovessi morire non lo voglio neanche al funerale. Ma chi se ne frega? E anche a mia moglie ha detto questo. Allora Oscar, io dico cosa, ma questi che sono, neri di carnagione, che sono sti immigrati, come sono? Neri, ma come sono? Fanno casino, minacciano? Non mi hanno presentato, non si sono presentati perché siete dei miserabili in quella famiglia, per quello, perché gli immigrati sono persone serie, hanno visto che in famiglia ci avete un casino, siete dei miserabili, gli immigrati hanno capito, siccome gli immigrati sono intelligenti, hanno capito che nella vostra famiglia c'è un casino pazzesco. Ogni volta però cazzo, ma perché fai chiudere il telefono a quel poveraccio? No, ma guarda, il signore è ossessionato da questi immigrati. No, ma è ossessionato con guardare capisco in famiglia sua. Adesso oggettivamente dimmi se ho ragione o no. Questa volta deve guardare in famiglia sua. Il punto, che... voglio fare il punto in 40 secondi. Il punto è questo qua. Veloce. Signore vuole impiccare a un palo il fratello della moglie e poi se la prende con gli immigrati. Ma che famiglia è quella lì? Ma che roba è? Ma dai! Aspetta che richiamiamo. Continua. Voglio impiccare al palo il fratello dell'immigrato della moglie, dai! Aspetta. È scandalosa! Oscar! Cioè, mi dica di nuovo! No, ho capito, però calma. Guardi che io a suo fratello, sì. Al fratello di mia moglie, sì. Mamma mia. Gli ho detto in faccia, ti do 140.000 euro. E vabbè, ho capito. Ho fatto stimare l'appartamento non mio che uguale immigrati. A tuo. D'accordo, aspetta. Anche troppo mi ha detto il geometra. Geometra. Cosa tutta me ne frega gente. A me che adesso lui ha fatto un atto contro sua sorella, già che è ammalata. Se lei si rende conto. Ma lei si rende scusi. Che è sua moglie. Sì, però scusami Oscar, ecco, abbi pazienza. Gli immigrati non c'entrano niente. Ormai è diventato un odio, se ricorda, perché io non lo posso neanche vedere la signora. Ma chi se ne frega? Di non evitarla, come è ma gli immigrati non c'entrano niente in questa storia. No, te sei un cazzo. Scusami Oscar, ma dimmi immigrati che danni hanno provocato? Qualche ma volta niente. Ti hanno minacciato? Non hanno provocato danni. Beh, ma allora che hanno fatto, povera? Ma che cavolo sei? Hanno fatto la sala, intanto, prima cosa, hanno fatto la sala. La sala? Che hanno fatto? La sala sotto alla camera nostra. E vabbè, ho capito. E questo è capito reato, però. E poi? Radio 24. E poi? È pronto? Sì, pronto. Poi che hanno fatto? Poi? Quando che si va a letto continuano a parlare a alta voce Beh, hai chiamato... E noi non chiamato... niente. Mia moglie gli ha detto una da basso un giorno, fate silenzio col dito così, sa cosa gli ha detto? Che gli ha detto? Vai a fare la nanna. Ha fatto bene, giù avrei detto anch'io uguale così, vai a fare la nanna e non rompere le balle, certo, sono a casa mia, hanno ragione, hanno perfettamente ragione. Hanno ragione chi? Gli immigrati, totalmente, gli avete sfracellato le scatole con le vostre storie di famiglia inutili, che vi odiate tutti là dentro, in quella famiglia vi odiate tutti. E non mi telefona più perché sennò io lo denuncio. Lei la rete 24. Ha ragione Oscar. Sai che hai avuto da sapere che nome. Che mi dia il nome, per favore. Ha ragione Oscar. Abdullah. Radio Abdullah. Ma che cavolo che radio siete? Radio che trasmette nei paesi arabi, si chiama radio immigrazione, ecco, si chiama questa. Chiamate la cooperativa, chiamate suo fratello. No, però Oscar, fratello. Ha capito. Oscar, in quella famiglia c'è un clima. Va bene? Oscar, la saluto. Oscar. Ma tu hai capito? Dai. Ma da sotto la vecchia che gli diceva porca puttana. No, ma poi è una famiglia aggressiva. Cioè dai, la vecchia, la signora, anzi la nonnina padana, che odia il devo fratello. Devo dire che questa volta non c'è. Ma la cosa, questa volta ti devo dare ragione. Nel senso, no, che guarda che c'è si di è venuto più a scoprire, si è venuto, ecco, a scoprire. No, ma ad analizzare di più la storia, tu scopri che il fratello della nonna, della vecchia, si vogliono signora, ammazzare a vicenda. Si vogliono bravo, ammazzare a vicenda. Esatto. E quello è un bel ambiente secondo te? E poi parli degli immigrati che da sotto, che nel piano di sotto forse faranno un po' di casino. Sì, sì. Magari berranno qualche birra, sì, siamo d'accordo. Sì. Ma il marito della nonna vuole vedere impiccato al palo più alto, peraltro, il cognato. Cioè, ma che ambiente è? Ma che famiglia è? Ragazzi, dai. Italiana, famiglia italiana. Italiana, no, padana probabilmente. Ho stappato una bottiglia di Amarone e me la sto gustando mentre ascolto la Zanzara. Alla faccia di Parenzo. La Zanzara. Non scordatevi il numero del cuore, 393 71 71 701. Amore, vieni qua che ti devo dire una cosa. No, vieni qua. Vieni qua. No, non posso scendere, sto ascoltando la Zanzara. Non posso scendere, non posso! Brucia, tu che chiudi il telefono in faccia, Brucia. Vediamo, chiudilo a me, vediamo. Prova a chiudere il telefono in faccia, vediamo se riesci. Chiudilo. Ma chi è sto deficiente? Beh, uno che chiama la segreteria e vuole farsi chiudere il telefono in faccia è un malato. Andiamo con Sgarbone, Super Sgarbone. Era un convegno per spiegare Giotto, e invece Sgarbone. Io sostengo la legittimità del burka, perché come le nostre suore di clausura si mettono come vogliono, se vanno a fare il bagno lo fanno vestite o quasi, e d'altra parte è una cosa che andrebbe precettata anche a Rosy Bindi. Vuoi vedere Rosy Bindi in bikini? Cioè, farle mettere il birchini, è talmente chiaro. Rosi Bindi in burkini. Beh, questa non è una bella battuta, però dai. Dai, mamma mia, e che sei diventato? A parte che è una cosa vecchia, cioè... è una tipica cosa sgarbiana, unita, sì, però una cosa vecchia unita al fatto del burkini. Io a Vittorio gli voglio molto bene, professore. Vabbè, però ma ho capito, ma dai, ma su, ma no, tu vuoi che vuoi fare? Vuoi parenzizzare Sgarbi? Non ho capito. Brutto. No, perché e allora basta, Sgarbi è così, cioè Sgarbi è maleducato, il più maleducato d'Italia, ha detto il mitologico professor Cicconi, scusa, l'avvocato. Beh, in realtà no, non è un maleducato, ma sì, ma è maleducato non in senso negativo, a suo modo, no? Quindi... alcune cose sì, altre no, vai. Io per me è il numero uno, per me la donna deve essere sottomessa, deve stare in casa, non deve rompere i coglioni, deve essere cornuta e accoglierti. Questa è la mia visione ideale, no? Tutti pensano così, ma vi diranno no, perché siamo uguali, lei è un cazzo. Il mondo è finito, il mondo musulmano conquista spazio perché dà alle donne lo spazio giusto, in casa senza rompere i coglioni, tecnicamente, per pulire, non so perché vi dico, per pulire. Ma quando vedo un uomo che porta la carrozzina, che si porta il bambino addosso, questo è un marito normale, ma quando vedo la mamma papà inedita degli ultimi mesi, Vendola, che si è fatto crescere le tette per poter fare anche la mamma e si tiene questo bambino appiccicato, cosa ne verrà fuori di questo disperato bambino trovato per caso e comprato in Canada? Io penso che ho tre figli, non li ho mai visti, mi danno del lei, sono perfetti, educati, senza un rompicoglioni di padre, dominanti, belli, pieni di coraggio, le figlie, una ogni volta che le ho viste ho detto voi avete una prospettiva per me, voglio mettervi in convento, e queste scappavano per paura che le mettessi veramente, una è rimasta un po' suora, l'altra invece va con due uomini alla volta, cioè le prende per mano e li domina. Su Berlusconi la scopata, senti. Se solo un coglionaccio come Berlusconi poteva essere processato per avere trombato una ragazza che voleva essere trombata e pagata. Però era minorenne, intanto deve chiedere il documento. E poi quando una comincia a praticare, dopo un po', che abbia 18 anni, 17 o 15, è comunque incline a quella funzione. Numero uno, sempre numero uno assoluto, sempre numero uno assoluto. Dove andiamo? Andiamo a... Dove andiamo? Josef Mantova, vai. Pronto? Pronto? Dimmi. Ciao. Bene. Ciao, hai chiamato tu, tutto bene? Sì, tutto certo, bene. Ragazzi, vi devo prima salutare, prima di parlare. Ma no, qua non si saluta mai, non c'è bisogno non di salutare. Non si saluta mai. Ciao non Parenzo, salam alaikum. Salam alaikum, alaikum salam. No, alaikum. Ciao ragazzi. Alaikum salam. Pensavo che avessi detto maricon, dai. Che maricon? Vai. No, niente, mi chiamo Josef, sono di Mantova. Questo l'abbiamo capito, Josef da Mantova. Poi che cosa vuoi dire? Perché quale minchia di motivo ci hai chiamato? Così? Allora, i migranti. Migranti, okay, sì. Migranti. Io sono un figlio di un ex migrante che è venuto in Italia negli anni 70. Okay? Bella testimonianza, questa, diciamo, importante, forte. Bravissimo. I migranti ce ne sono di sbagliati e di buoni, nel senso che tipo mio padre è venuto qua, si è fatto il culo, ha iniziato a lavorare. Bravo, ha aiutato tanta gente, piano piano è stato tra l'altro il primo migrante in un paesino di Mantova, quindi salto di cappello, è stato il primo conosciuto da tutti, ci ha cresciuto noi, ci siamo sposati con donne italiane. Importantissima testimonianza, ottimo, esatto. Ottimo, siamo bravo. Tre fratelli, ci siamo Vabbè, sposati allora? Tutti con... Allora, volevo dire che comunque i migranti non sono tutti uguali, c'è ovviamente chi c'è la mela marcia dappertutto, però andrebbero rispettati, perché c'è tanta gente che viene con buone intenzioni, capito? Quindi bisogna un attimo non sbagliarsi sempre a dire i migranti qua, migranti là e cose del genere. Vabbè, ma che discorso è? Bravo, cioè, ma è una testimonianza importante. No, è importante, fidati. Banalità assoluta. Va bene, Andrea da Palermo, vai Andrea, dimmi. Buonasera, neurodrome, volevo un pochettino andare fuori contesto riportando ai nazi vegani, mi sentite? E cosa vuoi dire sui nazi vegani? Allora, cosa c'è di nuovo? Neurodrome, navigando ho trovato questo canale e che ha fatto un video proprio sui commenti di Oti, mamme vegane, siamo al top, ricotta dal seno materno, ricotta veg mami, vi faccio sentire. Che ci devi fare sentire? Ricottone veg mami. Di Natale è rimasto solo il ricordo, certo che no, il ricordo. Se praticamente c'è la ricetta del ricottone veg mami dell'altro, adesso che ancora posto, l'ho fatto assaggiare alla mia vicina e mi disse che era ottimo. Vi lascio la ricetta così che voi non potete tutte provarci. Vabbè, praticamente questa qui è la ricetta. come? Scusami Andrea, ma com'è possibile la ricotta vegana? Ma, comunque viene sempre dallo sfruttamento degli animali, no? Ma cioè, no, sto facendo ascoltare mamma. Praticamente in diretta fanno sì. La ricotta con latte loro. Cioè in diretta il video questo che ho trovato Neurodrome fanno la ricotta. Come sì, però Andrea, adesso lascia perdere il video, non è che possiamo sentire il video derelato, cioè attraverso un'altra persona. Andrea, la questione fondamentale è questa, la ricotta viene comunque dall'animale, dunque c'è uno sfruttamento dell'animale secondo i veri vegani, dunque non si può mangiare. Cioè, ma intanto qui c'è il posto, con sì. Il video c'è il posto. C'è vabbè, ma questi sono capaci di tutto, tu lo sai che recentemente un gruppo in Francia, Parenzo, sì. Di super vegani animalisti, per provare di essere la sofferenza che secondo loro provano gli animali quando sono marchiati, si sono fatti marchiare anche loro. Cioè si sono fatti marchiare, sì, si sono fatti marchiare, sai con gli stampini che bruciano la pelle? Esattamente così. E poi ricoperti di sangue perché feriti, non so da che cosa, dalle bastonate che un animale ogni tanto prende. Cioè il marchio degli animali se lo sono impresso sulla loro pelle. Pensa che coglioni questi qua in Francia, pensa che imbecilli. Spero che sia vero questo filmato che gira, ma credo sia vero. Boh. Cioè si sono marchiati per provare le stesse sofferenze che prova l'animale. Pensa che teste di cazzo, pensa. Matteo Verona, vai! Mi senti? Sì, dimmi. Sì, sto chiamando per la circoncisione di cui stavate parlando prima con Parenzo e un'altra persona che non ho capito bene, che parlava, diceva più pulizia, più forza, resistenza, una cosa del genere. Io volevo sottolineare che io non sono circonciso, però dovevo esserlo per motivi, diciamo, di fimosi, non so se sai cosa sia. Sì, certamente. Che la maggior resistenza è dovuta esclusivamente alla perdita di sensibilità, che non è esattamente una cosa di cui andare fieri, di cui sì, essere cioè, felici. Non ho capito. Conferma, dottor Cannuna, conferma. Cioè, è così. Non ho capito, dopo l'operazione sì. Si perde sensibilità? È per quello che si guadagna resistenza. Ma che resistenza, ma ragazzi, ma non è vero che se uno è più resistente se c'ha, no? Se gli manca il filetto là, come si chiama, no, il filetto, se è circonciso. No, no, no, ma ti tagliano un bel pezzo di pelle. Ma no, ho capito, filetto, ma non è vero che sei più resistente, altrimenti ma... lo farebbero tutti, dai, su, Annuna, no, intervieni. No, Cruciani, ma non ti fidi. Perdi sì, di ma... sensibilità, di conseguenza ma... anche no, cioè... di piacere e ritardo del... Attacca, Annuna, attacca, Annuna, attacca l'infedele, lui ha detto, spiegagli aspetta, la potenzialità Matteo, del Matteo ha detto una cosa, si perde sensibilità, è vero o no? Un po' sì. È un capitolo un po' difficile. No, no, ma è l'unico capitolo che conta. Guarda, io non so di. Spiegagli. Sarai per affari qui in Italia, sicuramente, però qui interessa questa cosa qua. Davide, glielo diciamo. Sì, spiegaglielo. Spiegagli tutti i dettagli. T'hai invitato... un po' è vero. Un po' è vero. Cioè, si però perde sensibilità al pisello. Un pochino, sì. E tu devi pensare da quando sei piccolo. Te c'hai la mutandina e ti si struscia il pantalone. Sì. È un dramma. È un dramma. Si perde sensibilità. Però tu dici si acquista impotenza sessuale. Quello è in dubbio. Impotenza sessuale. E poi la pulizia, la famosa cosa della pulizia. Però uno si può sporcare lo stesso il pisello. Sì, certo, non restano le robe dentro perché non c'è più la. Perché, cioè, sei come una come roba si dice, terribile quello. In gergo scappellato, come si dice. Sì, no? sì. Come diceva che era Elio. Dunque, si può dire la formaggia. Esatto, si può dire che. No, Cannone, ma cosa dici? La formaggia non c'è più, ma non è vero. Me l'ha scritto David, me l'ha scritto. Dire però è anche vero che. Allora, noi Italians do it better. Israelians do it better. Jewish do it better, no? Esatto. Ah, è vero che Jewish do it better? Assolutamente, confermatissimo. Ma chiedi, ragazzi, dai. Chiedi in giro. Annuna, comunque sei veramente simpatico, sei il numero uno, ciao. Crucia, ho appena cacato 30 gradi. Sei veramente un maestro di vita. Grazie. In riferimento alla posizione, cioè, o meglio, all'angolo di curvatura in cui si defeca, ma se io 35 gradi li ottengo portando avanti il busto del corpo rispetto all'alzare le ginocchia, è la stessa cosa oppure no? Allora Cruciani, sono al lavoro e per cagare a 35 gradi praticamente mi sono pisciato sopra i pantaloni. Non so, ditemi voi. Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. JP Morgan Asset Management vi presenta La Zanzara. Insomma, Davide, ma ti pare normale che quelli del traffico non si fanno trovare? Cioè, c'è il traffico, non si fanno trovare, cade la linea. Ma non può cadere la linea sul traffico. Può succedere, non può cadere la linea a Mauro Tomantova, può cadere la linea a un ospite della Zanzara, ma non al traffico, che ha un orario preciso. Cazzo, la linea del traffico che cade, ma vaffanculo, va. Mi raccontava l'ottimo Annuna, che è rimasto sempre qui. No, non esaltare, perché sennò interviene Mauro da Mantova, io già lo sto tenendo a freno. Mi raccontava prima che c'è in Israele una trasmissione, vieni, sì, identica, adesso, no, molto identica simile, non ci può essere identica. Molto identica simile a questa qui, con una quantità di voli. Come si chiama la trasmissione in Israele? Zevi Asbani. Zevi Asbani, come Zevi? Zevi, appunto, volgarità, nome. Zevi, sì, certo, come Natania. No, sì, certo. ma non c'entra niente, Zevi. No, ma questo è stupido. Ma veramente. Vabbè, allora, come si chiama? Zevi? Un po' di rispetto. Zevi? Zevi Asbani. Zevi, il nervoso, l'incazzato. Ah, l'incazzato. Il titolo è proprio l'incazzato, capito? Si dicono una serie di cose incredibili. Se vedi la faccia di quello lì, è praticamente a 60 anni, è un Cruciani più vecchio. No, vaffanculo, scusa, ma che ne sai? Magari questo l'ho visto prima, me l'ha fatto vedere prima Cannone. E che dicono delle peggio cose, Annuna, tu la segui moltissimo. No, io seguo la Zanzara, te sorelle. Sì, lo so, però anche quella segui, immagino. No, solo la Zanzara. Senti, come si dice in ebraico, Mauro da Mantova sei un coglione, ti prego. Oh, è così bravo. In ebraico, sì, giusto. Mauro da Mantova sei un coglione. Io non è che lo penso, però Mauro da Mantova sei, ti prego, dimmelo in ebraico. Sì, diventa okay. Sì, vai. Mauro mi va. No, Mauro da Mantova. In ebraico. Mauro mi Mantova. Atame Fager. Mauro mi Mantova. Atame Fager. Proprio un imbecille. Un idiota patentato, come si dice? Mauro da Mantova. Ata. Tipesh Mukhlat. Ecco, meraviglioso. Allora, ragazzi, Alessandro Treviso, vai. Buonasera. Vai, Gianni. Dimmi. Ascolta, io volevo riprendermi un po' a ricollegarmi un po' al discorso degli immigrati. Io trovo che il sistema italiano di gestire gli immigrati sia sbagliato. Mi ricollego anche a una telefonata della settimana scorsa. In che senso? Un assessore leghista di Conegliano, mi sembra Vittorio Veneto, la settimana scorsa ha telefonato, non so se ti ricordi, dicendo che non sono immigrati ma turisti, e ti spiego perché. Al mio paese ce ne sono un po', gestiti da una cooperativa in una casa famiglia. Gli danno. Vabbè, mangiare. Allora dai, vai al sodo. Vado al sodo. Allora, gli immigrati vengono giustamente gestiti, puliti, lavati, ma gli danno da mangiare tutto. Alla mattina si svegliano in gruppi belli assortiti, salgono in corriera, vanno al mare gratis, sì, perché non gli si può mandare la multa a nessuno, la multa che e non paga il allora? Biglietto. Arrivano al mare, fanno un po' di elemosina, mangiano, bevono, tornano indietro, sì, sempre gratis, e poi se ne vanno a letto, sul letto bello rifatto, pulito. Ecco, cioè tu dici che li trattiamo troppo bene, li portiamo, sì, al mare? Secondo il punto di vista vengono trattati troppo bene. Come turisti. Mio nonno era emigrato, mio zio era emigrato, molti di noi sono stati immigrati, Svizzera, Australia, okay, ma non erano trattati... Con i guanti bianchi. Il fatto è che se tu sei in una, vieni aspirato da qualcuno, ti fanno le pulizie, ti fanno il letto, ti danno a mangiare, ma chi te lo fa fare, ti danno a mano in casa? Lo so, sì. Qualcuno paga, su questo non c'è dubbio. Qualcuno paga, appunto. Questo Alessandro, ciao, Italia. Sei stato molto chiaro. Parenzo, sta zitto perché starà parlando con Annuna. Molto chiaro. No, Annuna sta facendo i fatti suoi, sta chattando con delle no, sue non ho capito. Alessandro, qual è il problema? Non ho capito. Qual è il problema? Sì, certo, sta chattando con le amichette perché c'è il pisello che funziona di più. Ma adesso non puoi, però, guarda, è uno, ciao, dei più stimati, aspetta, professionisti. Aspetta. Nell'economia. Aspetta, la famiglia del cosa. Fai fare a me, Chi è questo? Sono ancora quelli lì? Una famiglia disastrata dove si vogliono uccidere tra parenti. Che ambiente. Senti, ambienti ci sono. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Come andiamo? Chi parla? Sì, è qui Milano. Buonasera, sono Cruciani, salve. Famiglia sì, Fracca? Buonasera. Famiglia Fracca? Sì, avevo detto però, Filippo, non posso fare dichiarazioni prima che non sento la trasmissione e la faccio sentire. Quale trasmissione? Qui è successo un casino, signora, un bordello è successo. Infatti. È successo una cosa molto grave, molto grave. Molto so. Grave. Cioè, accuse pazzesche, io so. L'ammazzo, non lo faccio... Devo passare la registrazione. No, mi passi suo marito? No, i carabinieri, addirittura, adesso non esageriamo. Vabbè, ma non è che sono cose gravi. No, è perché il signore ha già delle denunce. Che ha fatto? fatto, signore Oscar? Che ha fatto Oscar? Ha già delle denunce. Vi ha minacciato di morte? Vi ha minacciato di morte? Intanto le denunce sono le denunce, c'è poco da fare. Esatto, infatti, e quindi devo passare tutto in mano a chi ha già le altre denunce. Però scusi, no, ma io solo una cosa, no, per carità, sulle cose, ma è vero che questi immigrati che stanno là rompono così i coglioni che questi due anziani signori addirittura si sentono male, hanno avuto dei problemi di salute? No, tutto falso. Ma suo marito c'è, il signor, come si chiama? Non vuol parlare. Franco, com'è che si chiama suo marito? Non mi ricordo. No, guardi, lasciamo stare. Devo Gian Pietro. No, ma la situazione... la capisco, sono Parenzo, buonasera. Io la capisco perfettamente, le do anche tutta la mia solidarietà, il mio appoggio, e so che Cruciani le darà... l'appoggio? Io penso Cruciani che sia... devolverà la metà dello stipendio per pagare... non è vero, non è vero per niente. Sì. Per pagare chi, le spese legali di quello che sta accadendo. La vostra io credo questo, però credo con tutto rispetto che in quella famiglia ci siano tanti problemini. Ma però tanti. Loro dicono che è colpa di quei due signori, credo, no? Risalgono a più di anni fa. Però quindi... scusi, perché gli avete messo gli immigrati là? L'avete fatta apposta? Perché la signora dice dice che c'è una lettera in cui dice adesso vi mandiamo gli immigrati, vi mandiamo i cinesi. Tutto falso. No, la lettera c'è, ma non è così. Però scusi signora, proprio agli immigrati dovete affittare sta casa. Non è un affare né di loro, né di voi, né di nessun altro. Certo. Ma quello che c'è, è diventato di dominio pubblico, però ho capito, però ci penserà chi di dovere. Poi se ho l'autorizzazione a rispondere da parte dell'avvocato, ma gli avvocati dicono sempre di no, che non si deve parlare. Comunque qui è successo un casino, gli avvocati dicono sempre di no, di principio dicono di no, che non si deve parlare. Ho capito, comunque siccome non è coinvolto solo... comunque la signora, lei dice una cosa molto... tutta questa cosa contro gli immigrati che stanno là è tutta inventata, questi un po' di casino faranno però sti immigrati che stanno là o no? Ma senta, non più di una famiglia con quattro figli. Ah, tu dici una famiglia con quattro figli è uguale. Ma penso proprio di sì. Comunque penso guardi che il signor Oscar era molto arrabbiato con suo marito, era molto arrabbiato. Ho capito, ha detto che se lo vede non lo invita nemmeno al funerale, e se lo vede lo attacca al palo, minacce pazzesche. Vabbè, pagherà per quello che ha detto, per come ha... Però non mette in mezzo noi, signore, che non c'entriamo niente, noi per carità. Io passerò solo la registrazione che viaggia in internet a chi... Vabbè. Forze dell'ordine, altre volte. Mi passi suo marito un attimo, ci voglio fare due chiacchiere. Non vuole. Signor Gianfranco. Vabbè. No, è abbastanza amareggiato di tutte queste cose. Lo capisco. Di tutte queste balle, sì. Lo so, ma io non possiamo fare niente. Le balle. Qui hanno attaccato. È colpa di quello che ha affittato la casa agli immigrati. Ce l'ha fatto apposta. È colpa sua. Che si vada a vedere tutti i fascicoli che ci sono in procura. Ma perché litigate in famiglia? Famiglia. Diciamo che gli immigrati non c'entrano niente. Come hanno cominciato? Che hanno fatto? C'è tutto il fascicolo in procura. Il fascicolo che ci frega noi del fascicolo? Lo so. Storie italiane. Grazie signora, arrivederci. Niente, arrivederci. Oh ragazzi, ma ci siamo scordati degli 80 anni di Berlusconi, che cazzo ci frega, lo dicono tutti. Una piccola correzione, mi scrive una carissima amica che è anche un volto noto del TG5, ma non dirò il nome, insomma. Sì. Mi scrive che il programma in Israele si chiama Zahavi Azbani. E che cazzo quindi vuol dire? Sempre l'incazzato. Semplicemente, è così, no? Sempre Invece di Zevi è Zavi, è il nome. Zahavi. Come dire, Zahavi. Zahavi era anche un giocatore israeliano che è venuto in Italia, Zahavi, credo, se non sbaglio. Annullano questa cosa. Fermi tutti, ragazzi. Cerchiamo di collegarci. Ci siamo dimenticati gli 80 anni di Berlusconi. Per oggi ci sono grandi celebrazioni. E noi delle celebrazioni non ce ne frega nulla. Zero di solito. Delle celebrazioni non ce ne frega niente. Poi troppe celebrazioni oggi. Allora, però il collegamento col direttore ci vuole sempre, con Emilio, sempre importante, insomma, in fin dei conti, sai, adesso non ha molti rapporti, però 25 anni a Mediaset. Beh, compagno di Bisboccia e quant'altro, insomma, dai, oggi è importante. Cavolo, sono Emilio? Pronto? Sono Giuseppe, come stai? Molto bene. Ma scusa Emilio, sono tutti invitati questa sera tranne te? Ma che tristezza è? Allora guarda, non voglio fare delle bruscanerie inutili. Grande tristezza, ma capisco che in questo che momento... Capisci? Beh, innanzitutto mi spiace dirlo, ma c'è che ancora succede? In piedi una vicenda giudiziaria certo. che coinvolge lui e indirettamente me. Però scusa, resta un fatto, tu non ci sei e sembra che ci sia invece la Pascale. È una persona uguale in grata, tutto quello che io ho fatto per lei, come l'ho protetta, cioè, lei è stato il pomo della discordia, no, l'ingratitudine, capito cosa voglio dire? L'ingratitudine, certo. Perché... Beh, anche lui ti ha un po' abbandonato, eh? Anche lui ti ha un po' abbandonato. No, io non direi che mi ha abbandonato. Ma se fossi stato davvero un amico, alla fine saresti stato là. È che ormai sei scomodo, cioè per ma lui non sei... può, c'è il processo, te l'ha detto. Ma no, ma per lui sei una patata bollente, sei un casino, dai. No, patata... bollente non credo, però patata, adesso, io vi voglio bene, con te, con tutte e due c'ho un sospeso, sono in credito. Perché? Che io, c'hai in credito? Beh, perché? Sì. Mi hai trascurato. Ma che ti ho trascurato? Un po' è vero. Senti, ma continuano ad arrivare persone che dicono, cazzo, abbiamo chiamato Fede, ci ha mandato a fare in culo, ancora ti perseguita la gente? 16.000 persone in un mese. Ma ti hanno mandato video porno pure? No, sì, video porno mentre stupravano una ragazzina, beh, delle cose terrificanti. Mentre stupravano una ragazzina? Sì, sì, ma io ho consegnato alla polizia all'antiterrorismo di Milano. Tu hai detto pure che te le sei andate, quelle ragazze lì che hanno fatto i video che poi hanno messo su internet e se la sono andate a cercare, ma questa è una vergogna, dai. Era una battuta, metaforicamente parlando. Ma non ha fatto nulla di male, ha fatto un video... Lei è libera, io non l'ho visto. Ha fatto un video porno, dai. Ha sbagliato a fare un video porno. E perché ha sbagliato? Perché ha sbagliato? Ognuno può fare quello che gli pare a casa propria. Io sono perfettamente cosciente di avere metaforicamente detto che questa se l'è cercata in senso metaforico. Ma che metaforico? Questa è suicidata, sai? Che se l'è cercata che cosa? Cioè non si è cercata nulla, non si è cercata niente. No, e ho scritto che devono scoprire questa gente, mandarli in galera. Guardate, questi ragazzi sono pericolosi. Ma che t'hanno mandato? Che hanno diffuso il video, giusto? Che t'hanno mandato? Che t'hanno mandato a te? Mandano porcherie di ogni genere. Sì. Hanno mandato mentre stuprano una ragazza. Poi? Hanno mandato la di schiena, poi la mettono un imbuto in quel posto e fanno la pipì. Ma fa delle cose schifose. Vabbè, ma questo magari sono finte le cose, non sono vere. No. Però ragazzi, su questo io vi prego, da amici quali siamo, sì, assolutamente, date una mano a tentare di frenare questa violenza. Frenare, bisogna frenare la violenza. Sì, certo, io chiedo scusa di avere lasciato un'interpretazione sbagliata su come se l'è cercata, per carità. Ma hai detto che è sbagliato fare il video porno, se l'è cercata. Mi dispiace di aver detto in quei termini e chiedo naturalmente scusa. Ciao Emilio. Vi dico che... Chiedi perdono alla famiglia. Chiedo scusa, signora, io non la conosco, le chiedo scusa e mi dispiace immensamente. Dico soltanto che mi dispiace di aver usato un termine che però confermo metaforicamente. Ma allora, che confermi? Scusa, o confermi o ti penti? O confermi o ti penti? Sono ragazzine che girano nude, dai. E a me che vuol dire ragazzine nude? Che male c'è? Scusa, proprio te lo dici? Che facevi le cene eleganti con Berlusconi? No, non c'entra niente, dai, ti prego. Le ragazzine che girano nude, uno non può fare un video porno adesso, Emilio, proprio tu lo dici, dai. Cioè... No, io non ho mai fatto un video porno. Ma sei stato sempre ma che imbecilli quelle che fanno video porno? Ma che non sta bene? Certo. Ma sei sempre stato circondato da... porno, allora sono delle zozzone, delle zozzone. Allora, Tiziana Cantone è stata una zozzona, vergognati. Ma no, ma vedi, vergognare di quello che dici. Ne avremo altre sulla La zozzona, che zozzona, dai, zozzona. Non è lei, dico soltanto che chi va in video porno se ne va a cercare. E tutte le famiglie di buon senso non possono che condividere. E allora perché chiedi scusa? Se lo riconfermi, perché chiedi scusa? Alla mamma per essere stato involontariamente offendendo involontariamente una persona. E dagli allora, siccome sta affrontando una spesa legale, mollagli qualche quattrino. Va bene, stabilizza la cifra. Va bene, dai, preghiamo insieme. Ecco, appunto, preghiamo insieme. Mio Ciao. Dio. Capito? Padre nostro, facciamo una preghiera. Sei stato santificato nel nome tuo. Venga il tuo regno, che vive in secolo seculorum. Amen. Amen. Vergogna, diciamo. Ciao. trovatevi un lavoro, cazzo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Cruciani, ti atteggi al leader dei puttanieri, ma il nostro duce è uno solo, il cavaliere, 80 anni, il più grande puttaniere della storia italiana e oserei dire mondiale. Sapete, alla fin fine essere nato lo stesso giorno di Bersani e di Berlusconi non è che mi dà fastidio più di tanto, ma essere nato lo stesso giorno del Parenzino mi fa vomitare. A proposito di Berlusconi, voglio ricordare sempre... Questa è una brutta persona. Questa. No, vabbè, sì. Dai, questa gioca, dai, gioca. Ho detto solo che è una brutta persona. A proposito di Berlusconi... Recupera il numero di questo qui, che lo molesto io la notte. A proposito... 3-3, qual è il suo numero? Dimmi. Dopo te lo dico. Bravo. A proposito di Berlusconi, sì, c'erano testimonianze della Daddario. Ma non possiamo fare un ricordo di Shimon Peres, questo grande uomo di pace? No, è morto pure a Nemeramad. Com'è che facevi Nemeramad tu benissimo? È morto? Uomo di pace e Nemeramad, com'è che facevi Nemeramad? Com'è che lo imitavi Nemeramad? Israeli people want a war. We want only peace. Cioè, come peace? Sono terroristi che... No, terrorist is Israel. E kamikaze is a man of peace. Dice come? Kamikaze? Mi dico nemmeno we want only bees. Mi spiace con la B, con la B. Cioè, capisci? È strano questa roba che mi siano fai parlare morti. Della Daddario invece di Shimon Peres. È meglio la Daddario un attimo. No, allora, cosa? La Daddario no, meglio la Daddario. Ma no. Come allora, Daddario in ma tribunale. Guarda, sei... Come argomento. Allora, Daddario in tribunale a proposito di Berlusconi che fa 80 anni. Bisogna ricordare le perle di Berlusconi. Allora, sì, c'erano 20 tu ricordi, fammi capire, tu ricordi Berlusconi con la Daddario? Beh, certo, cioè, ma c'è un momento eccezionale. Non te lo devo dire io, ha fatto delle cose anche importanti alla fine. Devo dire che con le ma donne non si può ricordare Berlusconi per la Daddario, però c'erano... te lo dico io che sicuramente no, c'erano 20-25 ragazze e gli unici uomini erano il presidente Giampaolo Tarantini, ma Berlusconi aveva puntato me. Dopo cena io e altre ragazze andammo con Berlusconi a fare un giro nel palazzo. Eravamo quattro ragazze sul letto con Berlusconi, pensa che numero uno. All'improvviso, è vero che pagava, però comunque, all'improvviso ho sentito che mi accarezzavano in un posto in cui non dovevano. Siccome io un'orgia non l'ho mai fatta, dice la Daddario, sono corsa in bagno perché volevo andare via. Berlusconi mi ha raggiunto e mi ha calmato perché aveva capito che avevo problemi. Le altre tre ragazze hanno detto: amore, vai via. Dopo avermi tranquillizzato, il presidente mi ha portato in una stanza e mi ha fatto vedere le ville che ha nel mondo. Parliamo di materiale edile, parezzo, con l'orgia lì, sì. Di materiale edile. Vabbè, sì, parlavano dei calcestruzzi. E del residence che volevo costruire a Bari. Dopo un po' lasciai il palazzo e tornai in albergo. Siamo al top assoluto, al top assoluto. Allora ragazzi, dove andiamo? A Marco Milano, vai Marco da Milano, che per non far fare la solita battuta a Parenzo, Marco da Milano, già due anni che fa la solita battuta. Sì, Marco però Milano. Quello, sei anni se vai. Dai, dai, sei, no, ma è da quattro, è iniziato da quattro. Uh-huh. Marco, vai. Che cazzo c'è con Marco da Milano? No, ma niente, non ci abbiamo da preoccupare. C'è un quell'altro. Clima troppo teso. Ma non abbiamo nulla, qua, dai, chiudiamo qua. Vai, dimmi. Parlare con l'uomo dalla formagnomica. Chi è praticamente con Parenzo, l'uomo della quello che ha fatto lo sbiancamento anale, che il nero del culo gliel'ha messo. Non sì, il nero del culo, fidati, il nero del culo gliel'ha messo sotto gli occhi. Non vedi che c'ha gli occhi che puzzano ma di merda? Ma chi sta parlando questo qua, scusa? Il nero del tuo sedere, questo sbiancamento anale. Questo non l'ha fatto, non l'ha fatto lo sbiancamento anale. Questo lord inglese, chi è? Ma devi essere preciso, non l'ha fatto lo sbiancamento anale. Chi è questo lord inglese? Marco da Milano. La piccina del sord, non lord. Questo lord. Lei è già tornato a casa? Io sono a casa, sì. Ah, a te okay. Che cazzo te ne frega dove sono? Perché no, perché se, telefoni prima, perché sua moglie si stava divertendo. No, ma io di moglie non ne ho, perché sennò gli farei le corna. Bueno, quel che penso quindi preferisco andare in giro tranquillo. Ascolta un attimo, prima sì. T'ho sentito con sì. I nonnini. Intanto diamoci del lei, perché non abbiamo mai pranzato insieme. Quindi ci diamo del lei, brutto imbecille, che non è altro. Dimmi Marco, dimmi. Ascolta, i nonnini, sì. Miserabili, vicini, sì. Oh, ma che cazzo credi di essere? Vabbè, ho capito, questi qua però, abbi pazienza. No, vabbè, ma non puoi gli anziani, vicini, ma non puoi cosa? Vicina. Beh, ho capito, questi, non puoi cosa? Questi sono testi. Tra i due interventi, ma non puoi cosa? Brutti. Ma quelli c'hanno una famiglia, dove si vogliono uccidere, tra parenti, impiccati al palo più alto, e viene a farci lezioni qua. Però, ascolta, la puttana ha ammazzato una ragazzina italiana. Ma che c'è? Miserabile, non gliele detto, Ma che c'entra? Sei stato zitta perché si è fatto. Con chi sta parlando, scusa? No, sta dicendo di una romena gamba. Ma lei deve dare del lei, ma del lei. Lei deve darmi del lei. Lei deve pulirmi le scarpe, perché il massimo che può fare è quello di pulirmi la suola delle scarpe, anzi, non la parte sopra, la suola delle scarpe. Che hai fatto? Hai ruttato? Che hai fatto, Marco? Hai ruttato? L'hai sentito? Ma che è entrato nel cervello? Ma sei impazzito, sei? Cioè. Persona educata, scarpe, ti rutto in testa, altro persona, che scarpe, zio. Ti rutto in testa. Quindi lei non ha strano che lei non abbia trovato moglie. Strano che lei non abbia trovato moglie. A proposito di cacca. Ma che personcina per bene. Ragazzi, questo è il numero uno, eh. Si chiama Massimo Valente. Fermi tutti, sì. È un medico, un osteopata, caro Parezzo. Persona serissima. Detto però, il giullare della salute. Fa degli spettacoli, sarà anche a Milano fra qualche mese. Dunque non è una marchetta questa qua. Non ne facciamo allo Zeri. Anche se forse stai facendo forse una cosa importante. A Milano, stai promuovendo gennaio 2017. Ma non è quello il punto. E soprattutto parla alla gente, in mezzo alla gente, di come cagare. No. Di come evacuare. È il top, è l'argomento principale di questo inizio di stagione della Zanzara. Tutti ci chiamano per questo, c'è gente che mi manda foto con uno sgabellino, Trento, ho provato 30, 35, gente scandalizzata. Massimo! Oh, caro Giuseppe! Come stai? Amici, capito? Sto benissimo. Senti, ma lasciamo perdere, com'è che si chiama il tuo spettacolo, scusa? Chi è causa del suo mal pianga successo, ovviamente. Causa del suo mal pianga successo. Beh, allora, Massimo, livello lì, Al di là del 30-35 gradi, lo sgabello, cosa su cui hai dato, forse ci vuoi regalare anche qualche perla anche su questo, sulla posizione, diciamo, attraverso la quale si può cagare meglio. Qual è la posizione ideale? Sì, indubbiamente quella che hai illustrato tu, e che dai feedback che hai avuto già questi giorni è evidente che le persone che l'hanno provato, gli ascoltatori, sono stati tutti felici e contenti, quindi è dimostrato più o meno funziona. Anche perché qua non c'è niente da inventarsi. Bisogna solo ritornare al progetto originario. Cioè? Il progetto originario era cacare in accosciata in campagna, e quindi cioè in natura, e quindi bisogna solo riprodurre quel modello originario. Dunque, vabbè, su questo è tutto abbastanza chiaro, no? 30-35, confermi, tu sei osteopata, confermi. Sì, massima accosciata, cioè tu devi fare massima accosciata. Però c'è un altro elemento fondamentale, qual è, Massimo? Un altro elemento fondamentale è il movimento del diaframma. Cioè, il movimento del diaframma. Spinta del diaframma. Cioè la perché spinta. Ovviamente spinta del diaframma. Il movimento è vita, cioè gli organi, se si muovono bene, funzionano bene. Sì. Allora, se io riesco a fare una respirazione diaframmatica, spingere col diaframma, come anche quando. Com'è che si aspetta, cerchiamo di respirare bene col diaframma, Lorenzo, così caghiamo meglio. Potete provare. Come si se fa? Voi ora vi sedete alla punta della sedia e divaricate le gambe. Sì, divarichiamo le gambe, punta della sedia. La pancia va verso fuori. Ho capito. Pancia allora, fuori. Lorenzo, fai anche tu. Quando tu inspiri, lo sta facendo Annuna, guarda. La pancia va verso fuori. Allora, ispiro, dunque, punta, mi siedo sulla punta, gambe allargate, sì. Gambe larghe. Sì. Sposto il bacino in avanti. E poi inspiro dal naso. Quando inspiri, la pancia va verso fuori. Questo per spiegare cosa? Che se io, quando inspiro, il diaframma scende, una spinta verso il basso. Però non si può cagare così, c'è un po' complicato. C'è una domanda qui del dottor Annuna che non ha aspetta. Che sta allora, aspetta, provando. Aspetta, c'è una domanda del professor Annuna. Annuna, che domanda hai all'osteopata? Io non mi occupo di questo, quindi... Annuna, che domanda hai? Buonasera, professore. Mi scusi. Ma che professore? Che dice professore? Vai, Annuna. Cruciani. Cruciani, sì. Dimmi, Annuna, dimmi. Ho provato a farlo in realtà io a casa, dopo la trasmissione. In realtà, quando si defeca, c'è la possibilità. Quando si caga, c'è la possibilità anche che esca pipì. Perché allora? C'è una liberazione. Ti metti a 30, tac, e pisci di fuori. Questo, questo, Massimo, come rispondi a questa obiezione? Allora, professore, devi dare l'osservazione è pertinente. Difatti il vero problema è che noi vogliamo cacare in quel modo su un cesso che non è stato fatto per quel motivo, perché il cesso alla turca era quello, diciamo. Ah, tu dici dovremmo tutti mettere il cesso alla turca a casa per stare a posto. Ma questo è matto, me la vedo un poco difficile. No, però la cosa ideale sarebbe questa. La cosa ideale sarebbe questa. La cosa ideale sarebbe quella, perché là non c'è nessuno. Ma tu hai provato a metterlo a casa tua il cesso alla turca o no? Io ovviamente ci ho provato, ma non ci sono riuscito, perché non esistono, non si vendono. L'idraulico mi ha guardato, diciamo, cioè tu volevi metterlo e non ci sei riuscito? Ma non ci sono riuscito proprio, perché non si vendono, non si trovano, gli idraulici non sono in grado, non hanno mai messi rispetto, cioè, nelle case, quindi non sanno neanche come si faccia. Cioè, ma proprio non manca la tecnologia. Ma scusa, torniamo un attimo alla respirazione. Sì, che giustamente è un'idea di business questa. Allora, scusami, la cosa della respirazione. Uno non può però concentrare, prima di cagare uno di solito va di fretta. Io per esempio entro dentro casa, spesso vado di fretta a cagare. Difatti. Uno non è che può stare lì a fare la respirazione del diaframma, amico mio. Hai ragione Giuseppe, c'hai ragione. Difatti noi dobbiamo imparare a utilizzare il diaframma, quindi allenarlo, invece della respirazione toracica. Allora, uno dei motivi per cui le donne sono più stitiche degli uomini. Ah, le donne sono più stitiche degli uomini? Non lo sapevo io. Sì, perché tendono a respirare col torace di più, per un motivo di corteggiamento, di rituale di corteggiamento, per mostrare la mercanzia, per intenderci, no? Tendono a respirare di più col torace rispetto agli uomini. E dunque sono più stitiche. Anche perché, se tu pensi agli anni nel 1700, che usavano questi corpetti che stringevano, impedivano proprio al diaframma di scendere, quindi c'era proprio un impedimento fisico che poi allenato nel tempo diventava un problema. Capito? L'altra cosa qual è, oltre alla respirazione col diaframma? L'altra cosa è mangiare la frutta. Mangiare la frutta si caga meglio. Decisamente. Se tu metti la frutta a colazione, migliora la tua qualità. Questo si sa, Massimo, questo non ci illumini su questa cosa. Ma non è si evacua meglio, si evacua meglio. Non è così scontato. Se tu vai proprio a fare una statistica e vedi quanta gente mangia la frutta a colazione, sono pochissimi. Però scusami, tu mi hai detto una cosa fondamentale. Il medico, la prima cosa che ti deve dire quando vai a fare una visita, qualsiasi medico generico, la prima cosa che ti deve chiedere qual è? E se vai a cagare tutti i giorni, perché è un'unità di misura della salute. Cioè, se vai a cagare tutti i giorni, già sei sicuro che più o meno sei a posto? No, se tu non vai a cagare tutti i giorni, è sicuro che c'è un problema. Ah, ho capito, Beh, questo sì, non ci voleva il professore. Qua, non ci voleva l'osteopata. Però non è la domanda che viene fatta. Vabbè, ma oltre alla respirazione, allo sgabello, alla posizione alla turca, che altra novità ci devi dire sul cagare? Illuminaci. Ma che novità vuoi che ci sia? Ma che vuol dire? L'idratazione, aspetta, l'idratazione. L'idratazione, perché è il concetto della frutta che va messa a colazione e magari la verdura cruda mangiata prima del pranzo, sono due fattori che aumentano l'idratazione, perché l'idratazione non si fa bevendo, ma si fa mangiando la frutta e la verdura. Perché quella penetra meglio. E quindi più il corpo è idratato, più le feci sono... più facilmente escono più facilmente. Vabbè. Sempre la radio della Confindustria. Valente, ciao, grazie. Ciao Valente, grazie. Ciao. Chi c'era? Maurone. Che c'è, Mauro? Dimmi. Allora, stiamo parlando di merda. Devi stare tranquillo, però, perché qui si scherzava. Prima. Devi stare tranquillo, devi stare. Non è da caso, Parenzo. No, vabbè, giuro. Che vuoi fare? Che prendo il treno. Prendi il treno, aspetta, fallo parlare. Vengo a Roma. E che fai? Magari. Ti pesto. No, magari. Poi me ne torno a casa. Ma questa è una minaccia diretta, giuro, però. Pago io il biglietto per darti una testata in testa. Io ti do una sul naso. Pago io il biglietto. Ma che ha fatto? Che ha fatto? Dammi il numero di questo imbecille. Dammi il numero di cellulare di questo qua. Dammi il numero di cellulare. Io ti assicuro. No, dammi il numero di cellulare. Così lo chiamo a casa. Gli pago io il biglietto. Gli do una testata che se lo ricorda per quattro generazioni. Dammi il suo numero di cellulare. Dammi il numero di cellulare di questo miserabile. Gli do questa volta una testata sul naso che se la ricorda. Ma perché? Ma non devi fare così. Devi fare così. No? Allora, fai una cosa. Dimmi. Fai una cosa. Invece che gli hai detto al musulmano di insultare me. No, che musulmano? Quello è ebreo. Le persone insultarmi. Coglione, ma è ebreo. Sì. Dammi il numero. Ma è ebreo, non musulmano. È ebreo quello. È ebreo. Allora, vieni alla cena quando ci sarà la cena. Che ci sono tanti quelle legnate. Ma tu, scusa. ma di fronte a uno, ma di fronte a uno che è praticamente il capo del Ku Klux Klan italiano, come sei tu, che ha detto Heil Hitler, uno come deve reagire? Fai reagire anche gli altri. Uno si presenta. Bello, ma tu ti sei messo a chiesto perché uccidevano gli ebrei? Mamma, hanno messo in ginocchio la Germania. E perché? Perché? Ma no, la storia la sappiamo, sì, ma la storia la sappiamo. Allora, dai, su. Ma tu però, sai cosa ho letto? Tu però, scusa, ma letto la Hillary Clinton? Chi? Chi? Sai cosa ha detto la Hillary Clinton? Che ha detto Hillary Clinton? Che c'entra Hillary Clinton? Gli Stati Uniti mondiali vogliono conquistare il mondo, ma non lo farete mai, ebrei! Non mi metterete mai parole del mondo. Però scusa, Mauro, io dico una cosa, Mauro, però tu dovresti essere coerente con te stesso e fondare il Ku Klux Klan italiano. Cioè la filiale, giusto? La filiale italiana del Ku Klux Klan. Mi devi dare il numero, gli va data una legnata di botta e invece grazie. Mandagli Mossad. Ma no, cosa vado io a dire te, la legnata di botta e questo qui gli va data. Che cosa faresti? Fonda il Ku Klux Klan italiano. Una legnata. Il tiro all'ebreo, ma che sei impazzito? Il tiro all'ebreo, ma appunto, con questo qua non ci sono, gli va data una legnata no, di no, il Ku Klux deve fondare il Ku Klux Klan italiano. Ti do un consiglio, Ku Klux Klan italiano. Mauro da Mantova, segretario, fondatore, presidente. Ciao Annuna, mito assoluto, ciao. Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.